Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Because when we're good. Quando tutto andava bene, facevamo grandi canzoni che toccavano il cuore della gente e cambiavano le loro idee. E per questo oggi è una cosa triste, davvero triste. E mi mancherà. Ma ha distrutto l'essenza dei Crosby, Stills & Nash e dei Crosby, Stills, Nash & Young nel giro di pochi mesi, perché non è una bella persona. Quella che avete appena sentito, insomma, non è la miglior presentazione per il nostro personaggio. È la voce di Graham Nash, il fondatore degli Hollies, il pilastro del grande gruppo, prima di Crosby, Stills & Nash e poi Crosby, Stills, Nash e Young. Ma oggi non parliamo di lui, ma proprio della persona di cui Nash non parla bene, almeno dal punto di vista umano, perché parliamo di quello che ha contribuito a distruggere la band più famosa, una delle band più famose degli anni 70, quello che forse non è riuscito a essere all'altezza degli altri nonostante il suo enorme talento, e non ci è riuscito per colpa delle malattie, della depressione, ma soprattutto della droga. Oggi parliamo di David Crosby, quello con i baffi a tricheco del gruppo Crosby, Stills, Nash & Young. Tutti e tre eravamo dei ragazzi di talento, ma solo noi sapevamo che quella combinazione era in qualche modo benedetta. Noi tre avevamo voci differenti, avevamo accenti differenti, avevamo attitudini differenti. La cosa però che successe quando mettemmo insieme le nostre voci fu sorprendente. Come cominciammo a cantare, sapevamo di essere in qualcosa di nuovo, in una splendida terra incognita. C'era qualcosa di magico lì. Quella sensazione, amico, era come di qualcuno che ti fa un pompino all'improvviso, come svegliarsi fatti di acido, un flash, te lo giuro. Da queste parole si può capire l'attitudine di Crosby nei confronti delle droghe, un problema che ha attraversato costantemente la sua vita, la sua arte, anche se alla partenza lui aveva ricevuto molti più doni della maggior parte dei suoi coetanei, insomma era un bambino molto fortunato. Nasce il 14 agosto del 41 a Los Angeles, in California. Un'ottima famiglia, e sia il padre che la madre sono discendenti di famiglie importanti di origine olandese arrivate in America già nel 600. Quella della madre in particolare schiera nelle sue file molti politici. Il padre di David, Floyd, è un famoso direttore della fotografia, vince un Oscar per un film documentario Tabù sotto la direzione del regista Murnau, quello di Nosferatu. Insomma, Crosby non trascorre un'infanzia problematica come tante infanzie che abbiamo raccontato, col padre alcolista che scappa via quando il bambino ha 2 anni. Non è così. È assieme al fratello maggiore Ethan, certo non è un grande studente, ma ama le lezioni di musica, scopre il suo talento naturale, è forse anche educato dall'ascolto della vasta collezione di musica classica della madre. Però gli inizi non sono eclatanti, come sempre. Ho iniziato a cantare nei caffè quando ero ancora al liceo a Santa Barbara. Avevo un lavoretto come lavapiatti e pulivo anche i tavoli, così potevo stare in sala e ogni tanto chiedevo il permesso di armonizzare con il ragazzo che cantava sul palco. Quelle furono le prime volte che io abbia mai cantato su un palco di fronte a delle persone. Naturalmente non venivo pagato, ma per me fu il grande momento. Inizialmente, forse anche per via del padre che lavora a Hollywood, lui vuole diventare un attore, però è un sogno che non dura a lungo. Subito dopo, insomma, vuole cominciare a provare a cantare. Nel 64 c'è la sua prima opportunità di fare qualcosa di più che esibirsi in un caffè, perché conosce 2 ragazzi che vogliono provare a suonare per un pubblico più vasto. Sono Roger McGinn e Chris Hillman, che insieme fondano un gruppo chiamato i Byrds. Segniamocela questa. Con loro David sembra finalmente aver trovato la sua strada, e sentiamo come Hillman considerava Crosby nel periodo dei Byrds. David aveva il talento di creare problemi. Era come Pig's Bad Boy, era insicuro, come tutti gli altri. Ma se c'era qualcosa che lo spaventava, diventava bellicoso. David è stato un vero leader nei Byrds, più di quanto lo sia stato McGinn. Ha sempre proiettato se stesso sul palco. Era un estroverso e aveva un sacco di coraggio, il che a volte significava che poteva essere un coglione arrogante. per qualche anno i Byrds conoscono una grande notorietà e soprattutto grazie a pezzi come Turn, Turn, Turn, I Wasn't Born to Follow, ma poi c'è una consacrazione con la grande e famosa cover di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan. Però dopo, verso la fine del 67, McGinn comincia a essere veramente infastidito da Crosby, insomma alla fine riesce a cacciarlo via dal gruppo, come racconta in un'intervista del 1969. Alla fine lo abbiamo mandato via, non ce la faceva. Ha un grande talento, certo, una persona carina, a me piace, ma stava alzando un po' troppo la cresta. Voleva essere la guida del carrozzone e alla fine era diventato difficile lavorare con lui. Così noi tre rimasti The Byrds ci siamo riuniti e abbiamo deciso che non lo volevamo più in giro. Per Crosby è un brutto colpo, però in compenso riceve un po' di soldi, diciamo una liquidazione, si compra una barca a vela, comincia a navigare per la costa californiana da solo e quindi finalmente non ha nessuno con cui litigare, e quando è sulla terraferma comincia ad andare da amici a qualche festa. A una di queste feste c'è l'incontro chiave, la sua vita musicale imbocca la strada verso il mito. Il falco e il gabbiano. È il 1967, David Crosby è appena stato cacciato dai Byrds. Lui comincia a interessarsi a generi musicali diversi, va oltre gli stretti confini del folk rock, vuole utilizzare strumenti particolari, vuole smettere di fare cover, poi scrive dei nuovi pezzi, per esempio ce n'è uno che si chiama Triad, in cui narra la storia di un ménage à trois. Questo però non va bene per gli altri del gruppo, David non la prende bene. Sono venuti e hanno detto che volevano buttarmi fuori. Sono venuti zigzagando con le loro Porsche e mi hanno detto che ero uno impossibile a lavorarci insieme e che in ogni caso non ero molto bravo e che avrebbero fatto meglio senza di me. E francamente gli ho riso in faccia. Fanculo. Ma in realtà mi ha fatto un male cane. Non ho provato a farli ragionare. Gli ho giusto detto: è uno spreco vergognoso. Addio. E David abbandona quindi i Byrds e offre la sua Triad o Triad ai Jefferson Airplane e la canzone diventa un successo. Insomma, per David è la prova tangibile della miopia dei suoi ex compagni. L'ultimo atto della storia con i Byrds lo convince a prendersi una pausa di riflessione, gira per le coste americane e finisce per arrivare in Florida. Volevo vivere in barca a vela, volevo fare qualcosa di diverso, trovare un nuovo modo di vivere. Ero abbastanza deluso da tutto. Poi un giorno entrai in un caffè a Coconut Grove, in Florida, e sentii cantare Joni Mitchell. Me ne innamorai subito. Stava lì in piedi a cantare tutte quelle canzoni. Michael from Mountains, Both Sides Now. E io ero travolto dalle emozioni. Non potevo credere che ci fosse qualcuno così bravo. E Crosby diventa uno dei maggiori fan di Joni Mitchell, la porta con sé in California, a Laurel Canyon, una zona di Los Angeles abitata da hippie. E Joni non è l'unica a insediarsi nella zona, ci sono molti personaggi che vivono in questa parte della regione che contribuiscono alla vita artistica del posto. La fine degli anni 60 è un periodo prolifico, sia culturalmente che filosoficamente per questi artisti, perché ci si incontra, si va nelle case, si parla, si fa musica, si prova a cambiare il mondo. Intanto circola moltissima marijuana per aumentare, diciamo, il buon umore. Oltre alla casa di Joni Mitchell, tutti frequentano anche quella di Mama Cass dei Mamas and Papas, e la cicciona dei Mamas and Papas morirà di lì a poco. E proprio a una serata da Mama Cass, David incontra Stephen Stills, uno dei fondatori del leggendario gruppo Buffalo Springfield, quelli della bellissima For What It's Worth. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. Stills ha appena concluso la sua esperienza con i Buffalo, aveva fondato questa band assieme a Neil Young e vuole unirsi agli Experience di Jimi Hendrix, ma non ci riesce, quello è un altro mondo. In attesa di trovare una nuova band comincia a provare qualche accordo con Crosby e la cosa funziona. E di questo duo comincia a interessarsi un altro grande, si chiama Graham Nash. Aveva fondato gli Hollies, in inglese. Si erano conosciuti durante un tour americano degli Hollies. Nash, ascolta, ci sono delle canzoni abbozzate, ma ce n'è una, si intitola Guinevere. David l'ha dedicata a Joni Mitchell e Nash se ne innamora, si entusiasma per questa canzone. Insomma, decide di lasciare gli Hollies pur di entrare a far parte di questo gruppo nascente. Il passo successivo è un album intitolato CSN, dalle iniziali dei tre musicisti, e dentro ci sono brani come Almost Cut My Hair di Crosby, Sweet Judy Blue Eyes di Steel, Marrakesh Express di Nash. Insomma, sono tre super talenti, è una super band, un super gruppo. Poi ne nasceranno tanti in quei periodi, pensate solo a Emerson, Lake e Palmer per dirne uno, e loro tre sono tutti conosciuti. Insomma, l'album diventa subito un successo in un'epoca in cui il rock più elettrico la sta facendo da padrone. Ci sono personalità, soprattutto chitarristiche, come Jimi Hendrix, ma come Jimmy Page. Qui c'è un terzetto particolare con un impatto acustico e atmosfere tra il folk, il blues, il rock. Insomma, è quasi una rivoluzione. Il falco e il gabbiano. Oggi il nostro protagonista è una vera e propria leggenda musicale. E David Crosby è conosciuto non solo per aver creato insieme a Stills, Nash e poi anche Young uno dei gruppi pietre miliari della storia della West Coast americana, ma anche per le sue produzioni da soliste con tanti album, tra cui il magico If I Could Only Remember My Name. Procediamo per gradi, perché però di Crosby bisogna anche dire, insomma, del suo carattere assolutamente ostico. È uno che non sapeva stare molto con gli altri. Ma torniamo appunto al primo disco, quello prodotto assieme a Steel e Nash, uscito nella primavera del 69. È un disco molto diverso da quello che veniva prodotto in quel periodo. We knew that we were doing something really unusual. Sapevamo di star facendo qualcosa di molto diverso. Sapevamo le canzoni erano molto buone ed eravamo eccitatissimi. Erano gli anni dei chitarristi, gli anni di Clapton, di Hendrix e Jimmy Page. Invece escono fuori questi tre con le voci che cantano armonizzandosi fra di loro e tante parti acustiche. Insomma, era una cosa abbastanza inaspettata, ma grandiosa. E l'album ottiene un grande successo. E il potente produttore dell'Atlantic Record, Ahmet Ertegun, consiglia ai tre di non fermarsi, anzi di aggiungere un altro membro alla band. E il suo consiglio è quello di coinvolgere Neil Young, che era ex compagno di Stephen Stills ai tempi di Buffalo Springsteen. L'idea incontra qualche resistenza in Crosby, ma anche e soprattutto in Graham Nash. We had a interview with Neil in Greenwich Village on Bleecker Street. Avevamo un colloquio con Neil al Greenwich Village a Bleecker Street. Così andai io a far colazione con lui, perché ero quello più contrario di tutti. Proprio non capivo a cosa potesse servirci. Le nostre tre voci funzionavano benissimo insieme, e anche le nostre capacità musicali. Ma quando finimmo di fare colazione, avevo già cambiato idea. Neil era incredibilmente brillante e ovviamente la sua musica mi piacque molto. E quindi entra un altro caratterino non facile, però l'apporto di Neil Young è sostanziale. I quattro fanno il loro debutto all'Auditorium di Chicago nell'estate del 69, presentati da Joni Mitchell, e poi arriverà la vera e propria consacrazione. Arriva Woodstock. E a Woodstock i quattro si esibiscono suonando Wooden Ship, scritta da Crosby, quella che abbiamo appena sentito, e poi c'è una versione fiume di Sweet Judy Blue Eyes. Suonano alle tre di notte, però a Woodstock ci stava, insomma, non era riduttivo suonare alle tre di notte. Il successo è enorme, da quel momento non si fermano più, vanno in studio e registrano un nuovo album, si chiama Deja Vu. Ma mentre sono in sala, la fidanzata di David Crosby, Christine, rimane uccisa in un incidente d'auto. When I made Deja Vu, I was very sad. Mentre stavamo facendo Deja Vu, ero molto triste. La mia ragazza era appena morta e la maggior parte delle volte arrivavo in sala, mi sedevo per terra e iniziavo a piangere. Ero a pezzi. E mi sorprende che sia riuscito a fare quello che abbiamo fatto. E nonostante il dolore, Crosby riesce a infilare nell'album due brani meravigliosi, Almost Cut My Hair e il pezzo che dà il titolo all'album, Deja Vu. Però per David la morte di Christine è un colpo terribile e l'unico modo per soffocare il dolore è la droga. E la marijuana e l'hashish già fanno parte, diciamo, della normale amministrazione del periodo hippie, soprattutto in California, ma in questo periodo è arrivata la cocaina e poi è arrivata anche l'eroina, che lui fuma, sniffa, è una dipendenza che da quel momento in avanti caratterizzerà tutta la sua carriera, con conseguenze spesso disastrose. Insomma, le prime conseguenze sono all'interno della band, perché già c'è un equilibrio veramente precario tra quattro personalità così diverse, così complesse. A questo punto, se uno dei componenti comincia a impazzire per colpa della droga, tutto diventa ingestibile. Lui già aveva un carattere difficile, però da tossico è ancora più difficile da trattare. E i litigi tra i quattro sono così famosi che Frank Zappa li cita in una canzone, Do You Like My Car? Ma nonostante le tensioni riescono a pubblicare il loro testamento, direi, perché è un grandissimo album, il doppio album live Four Way Street, la strada di quattro direzioni, in qualche modo è un titolo molto azzeccato, contiene pezzi impegnati come Ohio di Neil Young, il brano che denuncia l'uccisione da parte della polizia di quattro studenti dell'Università dell'Ohio che protestavano contro Nixon. Poi ci sono brani più rarefatti come The Lee Shore di Crosby. Il disco comunque stabilisce che Crosby, Stills, Nash e Young hanno tutto il diritto per entrare nell'Olimpo della musica. E poi il disco soprattutto si colloca all'interno della controcultura giovanile del momento. Però la depressione di David, gli impegni personali degli altri tre componenti, le produzioni cominciano a interrompersi. David ne approfitta per mettere insieme dei brani per il suo primo album solo, che esce nel 71, If I Could Only Remember My Name, che è un album magico e brani sognanti, direi lisergici anche, ma e poi è un brano alla cui produzione partecipa tutta quella comunità musicale, dai Grateful Dead, Johnny Mitchell, dai Jorma Kaukonen e Grace League dei Jefferson Airplane. Insomma, tutti si radunano al suo fianco. I thought I met a man who said. Si riuniscono di nuovo i quattro nel 73 e poi c'è un glorioso tour che li tiene in giro per praticamente tutto il 74, un tour di grandissimo successo, arene piene, pubblico adorante che riempie interi stadi di football, scorrono fiumi di soldi e non solo fiumi di soldi. Il tour verrà rinominato come The Doom Tour, il tour condannato, il tour tragico. Il perché ce lo spiega proprio Graham Nash. Eravamo delle stelle del rock and roll al culmine della nostra fama. Avevamo tutto e a volte è necessario rompere la tensione. E le droghe e le donne erano una parte di quel processo. Avevamo un ragazzo che impiegavamo solo per rifornirci di cocaina. Avevamo bisogno di una quantità incredibile di energia per andare avanti con quel tour. E sono sicuro che in qualche modo la cocaina ci ha aiutato. Ma è una droga subdolamente distruttiva. E ce n'era troppa in giro. Eh sì, la cocaina distrugge quando meno te ne accorgi. Di quel tour ci sono molti aneddoti mitici, come Nash che racconta di aver trovato Crosby in una stanza con canne di cocaina con due ragazze, ma al di là della spavalderia le conseguenze su Crosby sono devastanti. Da quel momento, per sua stessa ammissione, tutto quello che fa è fatto sotto l'effetto della droga, comprese le canzoni che lui scrive. Gli amici sopportano, ma quando David comincia a rinunciare anche alla musica pur di drogarsi, capiscono che non c'è più niente da fare. La band iniziò a improvvisare e David stava fumando freebase, cocaina, da una pipetta che poi appoggiava su un amplificatore. L'improvvisazione era parecchio vigorosa e gli amplificatori vibravano molto. E così la pipetta iniziò a scivolare verso l'orlo dell'amplificatore, fino a quando non cadde per terra disintegrandosi. David smise di colpo di suonare. In quel momento capii che David era in un mare di problemi e che se lui era in un mare di problemi, lo eravamo tutti noi. E beh, se ti cade la pipetta della cocaina e tu devi fermare il pezzo, non riesci neanche a finire la canzone, vuol dire che sei messo veramente male. E con la droga arrivano i primi guai con la giustizia, poi arrivano gli arresti e i suoi amici, soprattutto Graham Nash, provano a mandarlo in una clinica di riabilitazione. Lui scappa il giorno dopo, le entrate e le uscite dalle cliniche cominciano a diventare un'abitudine. Insieme alla sua nuova fidanzata, Crosby comincia a condurre una vita quasi da barbone. Nell'86 viene arrestato dalla polizia del Texas per droga e possesso d'armi. Questa volta viene condannato a trascorrere 9 mesi in prigione ed è la sua salvezza. Volevo smettere, ma ero così dipendente che nonostante abbia cercato di smettere almeno 10 volte non ci sono riuscito. E avevo praticamente rinunciato all'idea. Ho pensato che sarei morto per droga e fine della storia. Quando mi hanno rinchiuso, mi ci sono voluti quasi 6 mesi solo per svegliarmi dal torpore. Ma alla fine è ciò che ho fatto. Se avessi avuto la scelta di tornare a farmi o trascorrere un altro anno in carcere, avrei buttato le chiavi della cella io stesso. Posso solo dirvi che essere un tossico all'ultimo stadio è una prigione molto peggiore che stare dietro le sbarre. E così dopo il carcere Crosby torna una nuova vita. Incide ancora con stile Nash 4 album non particolarmente grandiosi, però torna almeno a essere produttivo. All'inizio dell'87 addirittura torna anche Neil Young per 2 concerti di beneficenza in California. L'esperimento è positivo, i 4 tornano in sala di registrazione. Nell'88 esce American Dream, però l'album francamente insomma è ben lontano da essere all'altezza dei dischi dell'altro periodo di Crosby, Stills, Nash, Young. Però quegli anni di droga cominciano a uscire, gli anni passano, arrivano i problemi di salute per Crosby, problemi che culminano con un trapianto di fegato. Questo però non gli impedisce di fare un grande regalo a delle vecchie amiche, perché nel 2000 la cantante lesbica Melissa Etheridge annuncia che insieme alla sua compagna è diventata madre di una coppia di gemelli. Ovviamente è stato necessario l'apporto di un donatore, e il donatore è David Crosby, che ha quasi 60 anni e dà prova, diciamo, di prolificità mettendo al mondo 2 figlie e 1 figlio nati da diverse compagne. Nel 97 ritrova anche un figlio che era stato dato in adozione alla sua nascita, Raymond, col quale costruisce un rapporto, al punto che oggi i due suonano spesso assieme. Insomma, riabilitato, padre felice, però il carattere difficile di David Crosby non è molto migliorato. E anche i suoi amici più cari, come Graham Nash, hanno avuto sempre maggiori difficoltà a mantenere i rapporti con lui. E l'ultimo episodio è un'uscita infelice che ha avuto a proposito della nuova fidanzata di Neil Young, l'attrice Daryl Hannah. Lui l'ha definita una velenosa predatrice e Neil Young ovviamente non l'ha presa molto bene, anche se lui poi si è scusato. Però David Crosby è uno fatto così, è un grande talento offuscato da un carattere, da una vita non facile. Peccato, perché avrebbe potuto essere veramente ancora più grande, uno dei più significativi artisti di questi ultimi decenni, perché era l'interprete perfetto di un periodo come quello della West Coast americana, che aveva prodotto cose magnifiche. E ci sono storie così, storie nelle quali voli, poi magari non riesci a avere un carattere che ti faccia rimanere in alto, e allora scendi e risali e combatti, perché la vita di David Crosby è stata questa, una battaglia continua e tutto sommato soprattutto contro se stesso. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it o venite nel mio Facebook, nel nostro Facebook, nel nostro Twitter, nel mio Twitter, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.